Pronto Nando? Nicolas, sì. Sì, eccoci, ci siamo. Allora, siamo in diretta su Radio Default, questa è Ops Connecting Fights, la trasmissione a cura di occupazioni precari studenti. Abbiamo in collegamento da Casoria Nando del collettivo Fate Spazio dell'area nord di Napoli, che ci parlerà di quello che è successo oggi a Napoli. Allora, c'è stata una manifestazione davanti alla regione, proprio dentro la regione, dei comitati, del comitato che si batte contro la costruzione dell'inceneritore di Giugliano, vero? Raccontaci un po' che cosa è successo. Sì, vabbè, ciao a tutti e a tutte. Noi stamattina, diciamo in base alle assemblee che avevamo fatto precedentemente a questa giornata del 14, dove noi sapevamo che si dovevano accettare i requisiti di ammissibilità delle ditte che dovevano partecipare al bando di gara per la costruzione dell'inceneritore di Giugliano, abbiamo deciso di fare un presidio sotto la sede distaccata della regione, che è a Via De Gasperi, non è la regione a Via Santa Lucia, ma quella là dove c'è l'assessorato all'ambiente. Un gruppo di noi si è recato prima alle 7:30 di stamattina in questa sede distaccata della regione e abbiamo inizialmente occupato l'ingresso per non far entrare nessuno, aspettando il presidio delle 9, chiamato sia dal comitato, il coordinamento non inceneritore di Giugliano, gli studenti medi di Napoli, Stop Biocidio, noi di Fate Spazio, Area Nord di Napoli, e abbiamo deciso di fare questo atto, che può sembrare di forza, ma è semplicemente una reazione alla sordità che hanno dimostrato le istituzioni in confronto alle richieste dei cittadini, che non vogliono più un altro inceneritore nella provincia dopo quello che è stato causato con l'inceneritore di Acerra. Poi voi sapete anche che cosa stiamo vivendo con la scoperta, diciamo, la scoperta loro stavolta, diciamo, dei bidoni tossici seppelliti dalla Camorra e dalle istituzioni, dalle imprese del nord nei nostri terreni di Caivano, dell'Agro Aversano. Quindi, presi da questa totale sordità, abbiamo deciso di occupare questo settore della regione. Inizialmente abbiamo occupato l'ingresso, naturalmente la nostra era anche una richiesta di voler parlare con l'assessore, dato che il consiglio regionale, in base alle nostre spinte, aveva deliberato di sospendere il bando di gara, ma c'è per forza qualcuno che voleva andare avanti, e oggi si andava avanti con la prassi burocratica dell'accettazione dell'ammissibilità delle ditte. E quindi noi abbiamo inizialmente occupato, come stavo dicendo, l'ingresso, poi senza alcun problema abbiamo anche mediato con le forze dell'ordine per far entrare i dipendenti, ma comunque rimanendo ad occupare il quinto piano, che è il settore dove c'è sia lo studio, sia la stanza dell'assessore all'ambiente Romano, sia il posto dove poi si dovevano accertare le ammissibilità di queste ditte che partecipavano al bando di gara, che erano due, non ricordo adesso i nomi delle ditte, ma erano due che hanno chiesto l'ammissibilità, che hanno chiesto di costruire queste inceneriture. La protesta era totalmente pacifica, noi siamo stati al quinto piano, lì seduti nei corridoi, bloccando la stanza dell'assessore all'ambiente. Quando ci è stato chiesto di liberare le stanze, le abbiamo anche liberate, perché non volevamo che un coordinamento fatto anche da cittadini che si sono coordinati in questo momento per la vertenza di Giugliano e che magari non erano abituati a vivere il percorso delle manifestazioni, si potessero trovare in una situazione di disagio, di attacco violento da parte delle forze dell'ordine. Purtroppo questo non è tutta questa mediazione che noi abbiamo fatto con le forze dell'ordine non è servita a niente, perché nonostante noi abbiamo mediato fino all'ultimo, loro a un certo punto sono venuti, il questore è venuto e ha detto, cioè, se non me ne andate entro 3 secondi, cioè, vi carichiamo. Sì, sì, si cosa vede anche nei video. Cosa inammissibile proprio in un ufficio regionale. Poi vorrei capire anche come Caldoro è il presidente della regione, sì, Campania, come difenderà questa aggressione che c'è stata. Perché è stata un'aggressione seria, perché noi stavamo in un corridoio e sono arrivati due plotoni di polizia composto da una trentina di agenti. due protoni separati, uno dall'ascensore e l'altro dalle scale, e nonostante le donne del coordinamento, adulte, anziane e giovani, si siano cordonate davanti a tutto lo spezzone dei 50 ragazzi e ragazze che stavano lì a presidiare il quinto piano, loro hanno caricato, cioè, proprio come nelle peggiori cariche, come le peggiori cariche che fanno durante le manifestazioni, purtroppo noi conosciamo, diciamo, sì, senza alcun scrupolo, e hanno caricato tutti indifferentemente, cercando poi anche nella carica di individuare poi chi era che stava gestendo la cosa, o chi magari è più riconosciuto fra i compagni che solitamente lottano da anni sulla questione ambientale, e aggredendoli fisicamente, nonostante tutto lo spezzone dei 50, stava con le mani alzate, e penso che abbiate visto i video, sì, sì. I vari video che sono arrivati, che noi abbiamo mandato, sia quella interni, sia quella dei giornalisti che sono stati accuratamente cacciati prima della carica. C'erano giornalisti, Musella e gli altri, che sono stati prima trascinati fuori, letteralmente trascinati fuori. Infatti nel video fatto da uno di questi giornalisti si vede proprio il trascinamento di uno di loro fuori dalle scale, e poi direttamente si vede la fuoriuscita nostra, spinta e manganellata dalle forze dell'ordine fino a piano terra, dove ci è aspettata un'altra carica degli altri poliziotti, dell'altro corridoio di poliziotti che stava davanti ai cancelli. Cioè è stato proprio un atto di forza scellerato, prima di tutto. E poi c'è anche un dato politico da verificare con questa aggressione fatta in un ufficio pubblico, che al di là del fatto che noi l'avessimo occupato inizialmente, ma è un ufficio pubblico accessibile a tutti, e quindi non capiamo anche sui livelli legali come il questore si sia permesso di caricare 50 persone che stavano in un corridoio e che avevano, sì, lasciato anche la stanza dell'assessore libero. Sì, sicuramente una cosa che non, almeno io non ho mai visto, è una cosa inaudita e scellerata, come dicevi te, ma può essere, cioè, la reazione, ti chiedo, come ve la spiegate? Nel senso, può essere anche collegata al fatto che una reazione così spropositata, al fatto che nelle ultime settimane comunque la mobilitazione intorno alla questione di scariche, inceneritore, è cresciuta moltissimo, no? Tante le manifestazioni nell'arco di neanche un mese, molto partecipate. Oggi questo presidio, questa iniziativa, tra un mese so che c'è anche un corteo, che se non sbaglio è il 16 novembre, quindi può essere una reazione dovuta anche a questo, a una preoccupazione da parte dei tutori dell'ordine, delle istituzioni, rispetto a un qualcosa che sta crescendo, ad un'opposizione che sta crescendo, anche se gradualmente. Può essere quella una delle spiegazioni, diciamo, a questa reazione scellerata? La spiegazione che noi stiamo dando da tempo, perché comunque queste aggressioni le abbiamo sempre avuto, noi ricordiamo il 2009 ad Acerra, certo, quello che è successo quando ci hanno caricato indifferentemente, discriminatamente, tutto il corteo con un'avanzata a cuneo dei poliziotti, cioè ci hanno distrutto. Questo è semplicemente la solita difesa che i profitti fanno quando vengono messi in discussione. Oggi che i movimenti ambientalisti prendono piede, anche grazie, non so se fortunatamente o sfortunatamente, ma comunque grazie alla risonanza mediatica che stanno dando sia i programmi come Le Iene, oppure i vari attori che stanno schierandosi con delle foto, mo farsi pubblicità o meno, ma è tutto funzionale a questa, certo, protesta. E soprattutto sono messi in discussione dal fatto che chi sta in coordinamento oggi, da Caivano ad Aversa, ad Ortadiatella, che sono quelli là che hanno riempito le piazze con 30.000 persone nella marcia Orta Caivano e 2-3.000 persone sotto la pioggia nella marcia Aversa Giuliano, sono quelli là che stanno dicendo bonifica e subito, noi inceneritori, però se facciamo la bonifica c'è il controllo popolare, non è che chi ci ha inquinato adesso fa anche la bonifica. Certo. E quindi diciamo che questo tipo di controllo popolare, che poi dovrebbe essere realmente la democrazia, no? Che loro tanto decantano, non sta un po' bene a nessuno, ed è per questo che stanno reagendo. Inoltre questi sono movimenti che si stanno in qualsiasi posto di Napoli stanno crescendo, perché qualsiasi posto di Napoli è interessato da questa questione, perché al di là che gli inceneritori le diossine nell'aria, cioè le disperdono anche oltre il paese in cui vengono costruiti. Ma poi noi abbiamo una situazione di mercato ortofrutticolo devastata ormai da anni e che la gente non accetta più, perché noi abbiamo delle terre dove sono stati sversati rifiuti tossici di tutte le aziende del nord, grazie alla complicità delle istituzioni, la difesa delle forze dell'ordine ancora una volta, e quella che è stata la camorra che ha fatto gli accordi, e sono stati quelli là che hanno pulito la legalità per fare in modo che questo potesse accadere, per far risparmiare ancora una volta i profitti, no? Per far risparmiare le aziende del nord nello sversamento dei loro rifiuti tossici sotterrando nei nostri terreni. La gente non ci sta più a questo, ci sono tantissime parti sociali che sono eterogenee nelle condizioni, ma che però si stanno mettendo insieme, dalla Chiesa ai movimenti, Rete Campana Salute Ambiente, a noi della campagna Stop Biocidio, che di fate spazio che aderiamo a questa grande coalizione di Stop Biocidio, ci stiamo mettendo insieme e non abbiamo nessuna voglia più di essere uccisi nelle nostre case in maniera silente. Cioè, se voi sapete i dati dei tumori nel napoletano e nell'agra versano, sono cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi anni. In Certo, fondo questo. poi anche la campagna Biocidio, perché prende questo nome? Perché c'è un'indagine di un medico americano che, in base alla richiesta dei militari americani che lavorano nelle zone della Campania, anche qui a Casoria, vicino Capodichino, loro fecero una richiesta di avere il 15% in più dello stipendio perché lavoravano in un luogo tossico alla pari di chi ha lavorato in Jugoslavia con l'uranio impoverito, e la cosa, cioè, è stata accettata. Cioè, al finale solamente in Italia, o meglio nella regione Campania, la cosa non vuole essere accettata, che noi viviamo in un paese che ormai è intossicato. Addirittura a noi ci mandano sulla bolletta dell'acqua delle analisi dell'acqua che non corrispondono con quello che è il diktat del Ministero dell'Interno verso i propri soldati, che dice: non bevete l'acqua delle condotte comunali, ma comprate l'acqua imbottigliata, perché l'acqua delle condotte comunali è tossica. Cioè, noi non possiamo più sopravvivere in questa situazione. È Senti, ma. Senti, una terra martorizzata da tutto quello che è stato il profitto nel tempo. Cioè, ormai, cioè, ma questa. Ti interrompo un secondo. Questa campagna Stop Biocidio, che diciamo sembra una cosa estremamente interessante, e tra l'altro anche noi qua come Ops e comunque Castelli Romani stiamo iniziando a seguire, sperando che possa essere una modalità che si può anche riprodurre nel Lazio. Al di là del fatto che vuole appunto unire diverse realtà anche sulla questione della salute, no? In una terra martoriata da discariche, inceneritori, da discariche legali e illegali, ma quali sono gli obiettivi che si pone di medio e lungo termine, insomma, no? So che c'è, diciamo, tutta la questione anche dell'epidemiologia popolare, quindi raccogliere dati dal basso, insomma, quali sono gli obiettivi che si pone al di là di unire varie realtà? Beh, gli obiettivi sono abbastanza seri da due punti di vista. Uno è quello là di naturalmente mettere in democrazia tutta una serie di cose e magari sopperire al fatto che da noi i registri tumori non esistono, cioè non vogliono esistere, le ASL non vogliono dare dati, allora con indagini partecipate da parte dei cittadini, con medici specializzati tipo medicina democratica, medici per l'ambiente, che danno sempre delle risorse in più e partecipano a questa campagna, è un modo anche per smascherare tutto quello che vogliono nascondere, quindi è un grande processo di partecipazione. Però c'è anche un altro punto di vista che potrebbe essere il grande obiettivo di questa campagna, per la quale noi la consideriamo, ma, importantissima, però è anche un po' delicata per i rapporti di forza che si possono creare all'interno degli stessi movimenti che partecipano a questa lotta. L'opportunità seria che noi pensiamo, noi di Frate Spazio pensiamo, sia Stop Biocidio, è quella là che possa parlare a tutta quell'Italia che sta subendo un grande impatto ambientale sul proprio territorio, che sia l'intossicamento del suo territorio o la devastazione stessa del suo territorio. Cioè, Stop Biocidio significa dire no ai luoghi tossici, no agli inceneritori, no alle discariche, ma significa anche dire no MUS, no TAV, e quindi potrebbe essere un grande, non dico Contenitore. contenitore, ma Ok. un una grande opportunità per fare in modo che le eterogeneità sparse per l'Italia possano realmente iniziare a discutere insieme di quale sia l'attacco che il profitto fa alle nostre terre, perché poi è là che ne sta nascendo la contraddizione reale del capitale, cioè sul nostro territorio, sull'esproprio delle nostre terre, sulla intossicazione delle nostre terre, perché è là che sul fatto che arrivano tumori fino a casa, che crescono in maniera esponenziale in territori che vengono contaminati, e quindi si mette in discussione tutta una serie di cose, si può essere realmente una rete che possa iniziare a discutere, ad essere un laboratorio di discussione per iniziare anche un'opposizione sociale seria in tutto il paese. Però la questione è delicata, perché dobbiamo riuscire allo stesso tempo a non essere autoreferenziali, ma cercare con tutti e tutte quelli che stanno da tempo sui nostri territori, tipo la rete Campania Salute Ambiente, alla quale non si può non riconoscere il lavoro grande che è stato fatto, soprattutto dall'inceneritore da Cerra in poi, magari anche con la partecipazione di alcune parti sociali come Zanotelli, come Alex Zanotelli, che è sempre in prima linea, anche oggi c'era a questa manifestazione. Riconoscere e cercare l'unità, al di là del nome della campagna, al di là se può essere un vettore serio per fare in modo che delle eterogeneità possano mettersi insieme, allora questa campagna sicuramente avrà il valore che noi gli stiamo dando e per la quale la stiamo promuovendo. Se diventa un qualcosa di autoreferenziale, potrebbe essere un qualcosa che spacca una lotta, certo, che deve assolutamente continuare ad esistere e continuare ad essere determinata e determinante come lo è stato. In fondo oggi non sono stati visti i requisiti di ammissibilità delle ditte, quindi una vittoria, anche se parziale, anche se la sappiamo solo noi, perché non so se avete letto La Repubblica scandalosa oggi, no? Sì. Scontri fra manifestanti e polizia, e gli scontri non ci sono stati, c'è stato solo l'attacco della polizia ai manifestanti nei centri sociali, sì. Però c'è proprio un coordinamento, ci sono dei coordinamenti cittadini, parti sociali totalmente eterogenei che adesso entrano in lotta, che stanno arrivando a protestare, sono andati ad occupare insieme a noi che siamo da tempo nelle lotte per l'ambiente quel luogo, cioè quel quinto piano dell'ufficio della regione. Cioè La Repubblica è stato scandaloso con il video a fianco, un articolo che dice un'altra cosa, cioè proprio informazioni di regime, una cosa scandalosa. La conosciamo bene, purtroppo. Purtroppo siamo abbandonati a noi stessi però nel nostro piccolo e nella nostra partecipazione sappiamo che quelle buste oggi non sono state aperte, e se non c'eravamo forse le ammissibilità sarebbero state accettate, il bando di gara sarebbe andato avanti. La cosa seria che oggi dobbiamo fare è fare un appello a tutti i movimenti ambientalisti che ci sono in tutta la nazione, dai Notab ai Nomus, a tutti coloro che lottano contro i vari soprusi, le varie condizioni, quegli studenti, gli operai precari, di partecipare a quella che è la manifestazione del 16 novembre. Quello che ti volevo chiedere. Quella là, sì, di sabato 16 novembre, e fare un tentativo prima di tutto di dare forza a una campagna, far sentire che questa non è totalmente scollegata da tutte le altre campagne ambientaliste che ci sono nel resto del territorio nazionale, ma per la prima volta sì, Stop Biocidio, la rete Campania Ambiente assumono quel valore di cui ti dicevo prima. Potrebbe essere per la prima volta dopo anni anche una piazza costituente per iniziare a capire in che modo noi che stiamo in lotta in tutte le regioni d'Italia possiamo metterci insieme per fare una discussione più generale e attaccarli dal basso con una forma totalmente sociale di partecipazione democratica, una lotta di partecipazione democratica, e attaccare direttamente quello che è quel profitto che oggi sta inginocchiando la nostra vita nelle nostre case. Il senso è quello, quindi il tentativo, lo sforzo che noi chiediamo di fare a tutti quelli che stanno oggi lottando, sto parlando adesso come fate spazio, tutti quelli che stanno lottando oggi nella regione Campania, ma anche l'appello che ci sentiamo di fare a tutti coloro che lottano nel resto d'Italia, e di dare un valore serio a questa campagna sul biocidio e cercare di capire se quella piazza potrà essere costituente per un qualcosa di più per un soggetto rivoluzionario serio che metta in discussione, eterogeneo, serio, diverso da quello che è stato il modello storico, ma che possa mettere in discussione realmente i profitti che ci stanno pegando. Senti, quindi l'appuntamento è il 16 novembre a Napoli o dove? A Napoli. Okay. Percorso verso la regione. Ok, va bene. Grazie mille della testimonianza e del contributo che ci hai dato. Sicuramente noi stiamo lavorando su quella campagna anche nel Lazio, sperando che poi possa, no, anche qui, dove magari la questione della salute è meno vissuta, perché è stata non abbiamo le problematiche che ci sono a Napoli e provincia, ma comunque la devastazione ambientale riguarda anche il nostro territorio. Penso al problema adesso del post Malagrotta, penso ai tanti inceneritori presenti, alle centrali a biomasse e a biogas esistenti. Quindi sicuramente è una campagna che interessa, che può interessare anche il Lazio, e speriamo, no, che cresca anche qui. E quindi ti salutiamo, ci vediamo sicuramente il 16 novembre a Napoli, e niente, ti ringraziamo, ti ricordiamo anche che la radio e questa trasmissione è sempre disponibile nel caso ci siano aggiornamenti, nuove mobilitazioni, quindi chiamateci quando volete, e ci vediamo presto. Grazie a voi, ciao. Grazie Nando, ciao. Diventare su ricillo nennale, resta diventare su ricillo nennale, con le russe caro spiccate le camastre.